E siamo in linea col direttore artistico Francesco Guarino per raccontarvi di quelle che saranno le iniziative prossime, che sono due eventi in Piazza Lucio Dalla. Ciao Francesco. Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti e tutti. Questa bellissima iniziativa di Targa Officina Roversi, che è una rassegna ma non un concorso, cioè si cercano bravi autori di canzoni e non invece dei vincitori da incorniciare. Sì, no, nessun vincitore, c'è la grande voglia di ascoltarsi e di aprirsi contemporaneamente, quindi abbiamo rivolto lo sguardo a livello nazionale, abbiamo chiesto agli artisti di proporsi per partecipare a una rassegna, come è giusto che sia, per farsi ascoltare, per potersi anche conoscere a vicenda, direi. Però ci sarà comunque un meccanismo in qualche modo di premialità verso chi è più bravo, nel senso non che arriva prima, ma che viene magari riconosciuto più di un altro. Adesso non lo considererei un premio, è secondo me un doveroso riconoscimento da parte del mondo intellettuale e professionistico della musica e della poesia, anche perché poi è rivolto a poeti, scrittori di canzoni, cantautrici e cantautori. Ma sempre con un'ottica non mainstream, cioè... No, fuori dalle logiche del mercato. Fuori dalle logiche del mercato. Chi scrive, insomma, con la propria testa e non pensando di piacere o di infilarsi in un filone già consolidato. Sia se stessi e si trova in questa rassegna uno spazio dove potersi esprimere. Questo è il principio. Dopodiché i brani sono ascoltati contemporaneamente, stati inviati a una giuria, come dicevi tu, un'ampia giuria di promotori, dove la parola giuria ha un valore specifico e la parola promotori ha un peso invece specifico, perché sono tutte persone che si occupano di poesia, di musica a livello discografico, critico, editoriale e di organizzazione di eventi, che hanno abbracciato la filosofia della rassegna e quindi ascolteranno le opere degli artisti e potranno anche ricontattarli per future iniziative. Il nostro obiettivo è far conoscere gli artisti sia al pubblico, le due date sono il riferimento del 16 e il 26 settembre in Piazza Lucio Dalla, sia agli addetti lavori, perché non è detto che per quanto attenti si riesca a arrivare a tutti. Arriviamo quindi a questi appuntamenti in cui sarà visibile alla città questa iniziativa di Targa Officina Roversi, cioè il 16 settembre in Piazza Lucio Dalla. Chi si esibirà? Tutti i 25 artisti selezionati? Una parte? No, sarebbe bello, abbiamo due occasioni proprio perché sono 25, sono tanti. Se no diventa un Sanremo 2. Esatto, vorremmo dare il tempo giusto ad ognuno, quindi si dividono in due gruppi, se ne esibiranno 13 nella prima serata e 12 nella seconda, con degli ospiti che abbiamo il piacere, insomma, di avere con noi sul palco. Ecco, diamo un'anticipazione anche degli ospiti del 16 settembre. 16 settembre sarà con noi Angela Baraldi, che è anche presidente di giuria. Ci sarà anche Roberta Giallo, un'altra presidente di giuria. In più posso dire anche sicuramente Marinella Manicardi, che è una parte importante di Officina Roversi, che farà delle letture importanti di Roversi, ma viste queste giornate anche dedicato a un grande amico di Roversi e che abbiamo nel cuore tutti, che è Stefano Benti. Certo. Poi ci sarà anche qualcos'altro probabilmente, ma lo lasciamo come sorpresa per il pubblico, che sono sicuro si fiderà di noi. Bene, quindi lanciamo questo appello, insomma, di non mancare se si è interessati a queste cose, perché molti amano questi generi in cui, appunto, come tu dicevi, uno scrive essendo se stesso, però mancano le occasioni di conoscere gli artisti che nella propria bottega producono queste belle cose. Il 16 settembre in Piazza Lucio Dalla ci sarà l'occasione di vedere uno dopo l'altro i componenti di questa rassegna e inoltre ci saranno anche gli ospiti che probabilmente faranno qualcosa anche loro, immagino. C'è una regia di Alberto Ferraro e stiamo organizzando uno spettacolo in maniera che la voce sia unica. È un'opportunità importante, secondo me, per scoprire cose che non si riescono a trovare facilmente, provenienti da tutta Italia. Poi questo è molto interessante. Il livello è altissimo, ci sono arrivate più di 500 opere da selezionare, quindi è stata una selezione durissima, faticosa e e anche triste da un certo punto di vista, perché non siamo riusciti a ospitare tutti quelli che in realtà avrebbero potuto tranquillamente avere spazio. Quindi è insomma un'occasione d'oro, ci teniamo particolarmente e siamo convinti che sarà una serata estremamente piacevole. Quindi 16 settembre si comincia alle 21? Si incomincia alle 20. Alle 20. Partiamo alle 20 perché siamo tanti, quindi si parte subito fino alle 23. Quindi 16 e 26 settembre, ma per il momento concentriamoci sul 16 settembre in Piazza Lucio Dalla con Targhe Officina Roversi. Francesco, ti ringrazio di questa breve chiacchierata e del grande significato e valore artistico invece che sicuramente sarà con le cose che voi avete selezionato anche in modo doloroso, come ci hai appena detto. Grazie a voi, grazie Sergio.